Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Prendi un po' di lucciole, le metti insieme, le fai accoppiare, mano a mano selezioni quelle più grosse finché ottieni una lucciolona che metti sul comodino. Sul balcone anche. Sul sì. Balcone per illuminare il giardino. Poi sai che ambiente, molto romantico. Molto bello. Sì, vi sembrerà strano, ma parleremo di questo fra poco. Intanto i titoli e benvenuti a Mebius. La domanda impossibile questa settimana ci arriva da Manlio. Come fanno le lucciole o alcune specie marine ad emettere luce naturale? Sta arrivando! L'automobile che ci porta dove vogliamo andare senza che la si guidi. I primi esperimenti sul campo sembrano del tutto positivi. Ci fu un tempo non lontano nel quale militari italiani avevano le chiavi per far partire missili a testate nucleari. Solo oggi sappiamo come funzionava questa procedura. C'è un libro che stabilisce quali sono le malattie mentali, ma è possibile? La questione è molto controversa. Perché parlavamo di lucciole, allora, Chiara? Parliamo di lucciole, parliamo in generale di bioluminescenza, esatto. Cioè quegli esseri viventi, animaletti, pesci. Sì, ce ne sono di diverse, proprio di diverse specie, sia marini che terrestri, batteri e così via, celenterati, meduse e così via, che producono appunto questa luce, questa bioluminescenza. Noi siamo abituati forse di più alle lucciole, che nelle nostre città non ci sono più, però in campagna siamo abituati. C'è proprio un ascoltatore che ci chiede qualche informazione riguardo a questo. Sentiamo Manlio. So che esistono diverse specie in natura che si illuminano di luce propria, soprattutto nei fondali marini o anche le lucciole, ad esempio. Vorrei sapere, ma come fanno? E soprattutto noi come mai non siamo ancora riusciti ad emulare questa tecnologia per illuminare le nostre case o le nostre città? E questa quindi era una delle classiche domande che voi ascoltatori e ascoltatrici ci mandate. Ne approfittiamo per ricordare i contatti attraverso i quali ci potete scrivere. Allora, mebius@radio24.it, questa è la mail. E poi ricordo anche Twitter, che è moebius_online. E poi ovviamente Facebook, ci trovate come Mebius Scienza. Quindi chiedeteci l'amicizia, potete scriverci tutte le domande che volete. E ora veniamo alla domanda di Manlio e alla risposta che ci dà invece questa volta il professor Giorgio Sartori, che è docente di biochimica all'Università di Bologna e a Ravenna, e qui con noi questa sera. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, Sartor. Eccoci. Allora, cominciamo con la prima risposta da dare a Manlio. Che cos'è questa bioluminescenza? Come funziona? La bioluminescenza è un fenomeno ben conosciuto. Tra quelli che abitano in campagna, come dicevate voi, le lucciole si vedono a marzo, aprile, si vedono, soprattutto quando l'ambiente è pulito, si vedono lampeggiare. Ed è un fenomeno che ha sempre affascinato gli scienziati, ha affascinato gli scrittori, Verne in particolare. Ed è un fenomeno che si vede non solo nelle lucciole, non solo in ambiente terrestre, ma si vede anche in ambiente marino. È un fenomeno che deriva dal fatto che ci sono delle molecole che vanno allo stato eccitato, in pratica attraverso una reazione chimica che è pilotata da enzimi. Gli elettroni di queste molecole raggiungono dei livelli dei livelli vibrazionali e rotazionali eccitati, e di lì decadono allo stato fondamentale ed emettono luce. Emettono luce a lunghezze d'onda che sono in genere sul verde o sul blu, e si sono evolute nella storia dell'evoluzione, appunto, per scopi ben precisi. Ad esempio? Per esempio, per le lucciole l'accoppiamento è il tipico funzionamento. Le lucciole, ci sono delle bellissime riprese di alberi che si illuminano come lampadine, dove le lucciole lampeggiano in maniera sincrona. E questo è fondamentale per poter accoppiarsi. Per i funghi ci sono solamente delle speculazioni. Per esempio, ci sono dei funghi, quelli che hanno visto Bug's Life, i funghi nelle grotte delle formiche, lì pare che una delle funzioni, si ipotizza, che sia quella di permettere, appunto, di favorire attraverso il richiamo della luce in ambienti scuri lo spargere le spore dei funghi, oppure difendersi dai predatori come organismi luminescenti. E ad esempio per le specie marine tipo i molluschi, le meduse o i pesci? Allora, il meccanismo è fondamentalmente lo stesso. Ecco, ma mi scusi, Sartor, questi soggetti bioluminescenti conoscenti, decidono loro quando emettere luce oppure è qualcosa che è intrinseco al loro funzionamento, come noi respiriamo, così loro emettono luce? Allora, sia l'una cosa che l'altra, nel senso che per esempio ci sono dei batteri, dei microorganismi luminescenti, i quali si illuminano quando vengono urtati. Ah. Quello è l'effetto che si vede quando le navi o le barche solcano e fanno le scie luminescenti. Anche il famoso mare, viene detto il famoso mare in amore, giusto? Esatto, ecco. Quando ci sono per esempio anche nella risacca ci sono questi sì. effetti di luminescenza. Sì. Questa è una cosa. Un'altra cosa è sono meccanismi ancora più sofisticati, dove ci sono dei pesci come il fotoblefaron, il quale convive con degli organismi, microorganismi luminescenti e li tiene incollati, li tiene all'interno, al proprio interno, in una specie di palpebra sotto l'occhio. Come se fossero dei parassiti, vivono in simbiosi. Nei simbionti, esatto. Che poi oltretutto i simbionti che si trasferiscono di madre in figlio attraverso le uova, cioè quindi non è una cosa banale. Non è stabile. E questi vengono utilizzati, questo fotoblefaron appunto ha questa specie di palpebra che apre o chiude e i batteri sono sempre accesi. E cosa servono sulla palpebra? Sono al pesce, servono per segnalare la propria esistenza e per segnalare oppure per attirare delle prede e potersene nutrire. I fari. Per svolgere una funzione di predazione o di difesa dalla predazione. Uno sguardo tremendamente luminoso. Sì, molto affascinante. Diciamo. Ecco, però veniamo alla seconda parte della domanda di Manlio. Cioè, noi riusciremmo a sfruttare questo tipo di energia o meglio, riusciremo a riprodurla artificialmente? Allora, che io sappia, c'è già qualcuno che ci lavora. Nel senso che credo sia una nota caso olandese di lampadine che fa queste cose a livello ovviamente di sperimentale di ricerca di base. D'altra parte ne parlava anche Mark Twain in uno dei suoi romanzi, non mi ricordo quale, di Huckleberry Finn, parlava di mettevano i funghi luminescenti nei barattoli e usavano per andare dentro le grotte come delle lampadine. Ci sono, mi ricordo l'illustrazione. Sì. Esatto, e sono cose che vengono che venivano utilizzate in maniera molto magari fantasiosa. Il problema qual è? Che è l'intensità che è bassa. Sì. Quindi non è paragonabile a una nostra lampadina da 100 watt o da 22 watt se di quelle nuove, che possa illuminare una stanza. Può essere una cosa di soccorso, una cosa di emergenza. Sì. E poi in ogni caso bisogna comunque avere una cultura batterica che possa sopravvivere. Ci vorrebbe quella lucciolona da un chilo di cui si diceva all'inizio, però poi dopo. Una lucciolona da un chilo, poi dopo voglio vedere anche come gli diamo da mangiare. Sì, esatto. Sarebbe una convivenza non semplice. Possiamo tenere al guinzaglio. Va bene, grazie mille professore. Verità. Buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, divertitevi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sali sulla macchina e le dici: vorrei andare in Corso Garibaldi, appunto. Ma magari. Le dici a lei, alla macchina, alla non macchina. È un taxi. Ah, non alla signora tassista. No, è la macchina, le dici: devo andare in Corso Garibaldi. E lei va. Vabbè, per essere non esageriamo, addirittura anche in centro a Milano. Non farmi domande perché tu sei stata a Bruxelles. No, Anna, io... Hai visto cose consimili, ma non... Qualche mese fa, ovviamente eravamo in pista, quindi senza pericoli, senza altre auto che ti venissero incontro. Però in effetti ho provato il parcheggio automatico, cioè tu lasci completamente il volante e la macchina si parcheggia da sola. È molto impressionante, soprattutto quando la fai andare e davanti hai un muro e tu non devi frenare, non devi fare nulla. Questa è un'altra cosa che questa fa, è un'altra vede cosa, lei l'ostacolo. Lei vede l'ostacolo e si ferma, parcheggia, si ferma, anche se sbandi ad esempio su una carreggiata, percepisce l'oscillazione, si rimette in pista. È molto impressionante perché tu devi stare fermo, la macchina va e non puoi né muovere i pedali né muovere le mani sul volante, quindi è veramente impressionante. Però dobbiamo abituarci. Ok, e qui c'è molto di più. E per parlare di questo molto di più, insieme ad altre cose, c'è un convegno che si terrà la prossima settimana all'Università del Sannio, quindi a Benevento. Dal 12 al 14 di settembre. Dal 12 al 14 di settembre, e abbiamo qui con noi questa sera Luigi Glielmo. Buonasera Glielmo. Buonasera. Organizzatore del convegno, docente di automatica all'Università del Sannio. L'automatica è questa scienza, disciplina, arte, perché è veramente un universo molto ampio, disciplinare. che si interessa di tante situazioni nelle quali bisogna che si mettano in moto dei congegni automatici. Una delle cose che sta emergendo sempre di più, perché si sta dicendo che insomma è imminente, è questa delle automobili che effettivamente si guidano, spostano da sole. Cioè andiamo sopra, diciamo all'auto che dobbiamo andare un indirizzo e questo ci dovrebbe accadere. Mi pare che siano già stati fatti degli esperimenti concreti in cittadine. Sì, ci sono vari esperimenti in corso nel mondo, e in California soprattutto, ma anche in Europa c'è qualcosa del genere. E la tecnologia è tutta disponibile ormai, cioè la cosa rassicurante per noi che lavoriamo su queste cose e che tutti i pezzi del Lego sono messi lì, sono lì disponibili, si possono comprare, più o meno costosi. E poi il compito, diciamo, degli ingegneri dei controlli è farli funzionare tutti insieme. In sicurezza. Sì, in sicurezza. Certo. Sì, quello è un problema aggiuntivo, poi quello fa parte un po' dell'ingegnerizzazione, renderlo sicuro. Per fare i prototipi, diciamo che ci sono tantissime maniere per farlo, tantissime soluzioni vengono proposte in letteratura. Però senta, ma avviene proprio così? Cioè uno sale, mette l'indirizzo e la macchina avrà un suo navigatore ovviamente, però compie il percorso evitando tutti gli ostacoli, fermandosi ai semafori, proprio così? Sì, in linea di principio sì, adesso bisogna vedere questo particolare nelle varie realizzazioni, perché poi parliamo prima dell'aspetto microscopico e poi l'aspetto macroscopico. L'aspetto microscopico, bisogna evitare gli ostacoli, i pedoni e seguire la strada. Direi. Immaginiamo di avere tanti sensori intorno all'automobile, telecamere, radar, lidar, cioè radar di tipo ottico, anche a infrarossi per sentire le persone, il calore delle persone, il calore delle altre automobili. Quindi ho tanti sensori tutti intorno e devo cercare di capire la mia macchina dove si trova nella carreggiata. E la prima cosa, devo andare avanti senza incontrare nessuno. Se riesco a risolvere questo problema micro, posso pensare al problema macro, cioè seguire una strada, un percorso. Sì. Però poi ci sta in verità ad aggiungere l'interazione con altri veicoli, non solo con diciamo gli oggetti fissi, la carreggiata, il bordo della strada, ma certo, con gli oggetti mobili e le altre automobili. Questo sembra pure piuttosto è un passo intermedio, diciamo. Ancora una volta è una combinazione di tanti sensori, cioè tante informazioni. Sì. Ma poi io queste informazioni devo mettere insieme e le devo prendere delle decisioni, e quindi attuo un feedback. Tutto ruota intorno a questo concetto di feedback. Di feedback, e ci arriviamo subito. Però per restare ancora un po' sull'auto, il problema credo che poi sia anche il fatto che in una città si vengono a creare degli elementi nuovi, la famosa buca che il comune prima o poi deve realizzare in una strada, perché sennò non o il non lavoro tira in corso sera. Improvviso, ad esempio. Il lavoro in corso, appunto, insomma, cose di questo genere. Lì a quel punto cosa si prevede? Che ci possa essere ovviamente l'intervento del proprietario della macchina, che fa magari una deviazione e poi la macchina riprende a seguire una mappa. Ci sono degli esperimenti in cui l'automobile è stata anche in grado di gestire situazioni nuove senza l'intervento del pilota. Tipicamente il pilota sta a fianco per evitare disastri. Però diciamo, con la dovuta elaborazione delle informazioni, se i tempi sono sufficientemente, il calcolatore a bordo è sufficientemente veloce, è ben addestrato, diciamo così, è possibile anche riconoscere situazioni non canoniche. Beh, in un mondo ideale di questo tipo, con i sensori che funzionano, tutta l'ingegnerizzazione eccetera, sarebbe forse ancora più sicuro, perché a questo punto le auto potrebbero evitare gli ostacoli e evitare forse anche gli incidenti più frequenti. Ed essere molto, come dire, ligi anche alle regole. No, no? O sbaglio? Beh, addirittura si potrebbe forse preferire la guida automatica a quella umana. Lo dicono in molti. Sì. Ad occhio e croce, lei, insomma, se dovesse fare una stima, fra 4-5 anni potremmo incominciare a vederle? O le sembra presto? 4-5 anni, sì, forse qualcosa in più, 7-8 anni. Poi c'è un problema anche di legislazione. Non so in Italia, ad esempio, se quanto è facile. Ho letto che negli Stati Uniti, in qualche stato, si comincia ad omologare. Da noi in Italia credo che sarebbe già molto più difficile. Lei giustamente poco fa sottolineava, e concludiamo su questo, che però anche qui che cosa abbiamo a che fare? Abbiamo a che fare con un sacco di informazioni che vanno, si ricevono dall'ambiente e poi devono generare un ritorno per altre azioni nell'ambiente stesso. Il convegno di automatica ovviamente è su questo concetto di come si risponde all'informazione che si riceve. Sì, viviamo nel mondo dell'informazione, le tecnologie dell'informazione, gli ingegneri dei controlli come me e come gli altri 100 e oltre che si riuniranno a Benevento lavorano in questa disciplina, che si pone il problema di estrarre decisioni dalla montagna di informazioni che riceviamo. Ma poi bisogna prendere la decisione, giro a destra, a sinistra, mi fermo. Ecco, questa disciplina qui che estrae informazioni è la disciplina dell'automatica. Chi fosse interessato a, come dire, raggiungere il convegno ma non può raggiungere Benevento, è possibile seguire alcuni degli eventi in streaming. Allora vi ricordiamo innanzitutto le date, 12-14 settembre, e trovate tutte le modalità per accedere allo streaming sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Grazie Guglielmo. Buonasera a voi. Buonasera Guglielmo, buona ricerca. Ma qui a quanto pare, Chiara, le novità imminenti nel campo dei trasporti non finiscono, abbiamo un'altra iniziativa. Nello stesso periodo, praticamente quasi, dal 13 al 16 di settembre, questa volta a Milano però, c'è la possibilità di provare qualsivoglia veicolo, però elettrico. Elettrico. ElettroCity è l'organizzatore di questo appuntamento, che si chiama appunto così, è Luca Mortara. Buonasera Mortara. Buonasera a tutti. Allora, cos'è che combinate? Cos'è, qualsiasi cos'è questa veicolo possiamo provare? Beh, potete provare più di 50 veicoli elettrici, dai monopattini fino alle automobili, passando per bicicletta pedalata assistita, scooter, motociclette, microcar, praticamente tutto quello, il meglio che è oggi disponibile in Italia in un posto solo per 4 giorni, si può provare con questa emozione di andare in giro per la città senza inquinare, spendendo un centesimo al chilometro e guardando il mondo per come sarà. Certo. È un evento abbastanza unico in effetti. Poi scusi, si gira proprio, cioè c'è un percorso cittadino, 2 o 3 percorsi che avete studiato e che si potranno fare. Si può provare. Sì, l'appuntamento è in via Foppa 49. A Milano. A Milano, dalle 10 di mattina fino alle 9 di sera, orario continuato, per 4 giorni consecutivi, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dal 13 al 16, si può venire quando si vuole. Si sceglie il veicolo elettrico che si vuole provare. Ci sono 3 circuiti cittadini di prova, quindi da soli o accompagnati se si tratta di automobili. Si gira per la città in pieno silenzio, provando, e noi pensiamo che saranno almeno 5.000 i milanesi che proveranno per la prima milanesi volta e non con un veicolo elettrico, provando appunto il piacere di viaggiare a emissioni zero. Allora facciamo un giochino: se qualche ascoltatore milanese non va, lo prova, ci manda via mail una foto, le mettiamo sul sito, proviamo. mebius@radio24.it, questa è la nostra mail. Ok. Sì, poi tra l'altro tutti gli ascoltatori della radio, se vanno su www.elettrocity.com, possono registrarsi all'evento, ricevere a casa il loro test bonus gratuito e l'invito a venire a questa festa. Lo chiamiamo invitati alla festa, anche perché il 16 domenica comincia la settimana europea della mobilità sostenibile e questo evento la lancia a Milano. Lasciamo Luca Mortara, e grazie Mortara, e andiamo da Albino Cangemi, che è amministratore delegato di Mad Motor, che è una società che appunto si interessa e distribuisce tanti marchi che riguardano la mobilità elettrica, ma arriviamo da lei più che altro come esperto. Ci sono dati estremamente incoraggianti sul fatto che effettivamente comincia a funzionare, c'è una domanda grossa. Innanzitutto buonasera a tutti, confermo quanto dicevate, in quanto noi esistiamo da 5 anni e i primi anni ovviamente un po' di difficoltà, adesso i tempi sono maturi, stiamo riscontrando anche noi che la coscienza dei cittadini sta prendendo questa vena ecologica. E i numeri sono buoni, insomma, cos'è che si vendono di più? Biciclette? Tendenzialmente no, vendiamo scooter elettrici tendenzialmente, soprattutto cinquantini, diciamo l'equivalente del cinquantino, che per prezzo, per prestazioni si adattano a grandi città come Milano appunto, e sono anche piuttosto risparmiosi insomma a livello di costo di ricarica. Certo. Soprattutto stiamo notando che si abbassa il livello dell'età degli acquirenti. Prima avevamo una fascia che andava dai 35 ai 50 anni e adesso stiamo notando, insomma, la soglia dei 30 anni si sta abbondantemente abbassando. Si fa un po' fatica a tirare dentro ovviamente i ragazzini in età di patente, perché hanno ancora un po' tutto, ma il mito della vera automobile. Il rumore, esatto, però stiamo notando, anche noi facciamo anche un grosso lavoro nelle scuole e quindi insomma un lavoro di sensibilizzazione. E abbiamo dei risultati decisamente incoraggianti. E ci sono anche i mezzi per il trasporto merci? Sì, certo, ci sono dei mezzi cargo, già qualche posta, qualche ente privato ha fatto esperimenti con risultati soddisfacenti, ovviamente. Insomma, i numeri sono in crescita, c'è un trend forte, questa è la notizia importante. Decisamente sì, grazie al cielo. Grazie Cangemi. Grazie a voi. Buon lavoro. Ricordiamo le date dell'evento, allora ElectroCity dal 13 al 16 di settembre in via Fuppa a Milano. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è un presidente americano, interpretato da un grande Peter Sellers, che chiama a tarda sera il suo analogo nel governo del mondo, ovvero il premier sovietico, un certo Dmitri. Ci troviamo nel bunker sotto la Casa Bianca agli inizi degli anni 60 e qui forse molti di voi hanno già capito che stiamo parlando di quel bellissimo film che è Il dottor Stranamore. L'ambasciatore sovietico negli Stati Uniti è lì, nel bunker, pure lui, convocato per l'assoluta e tragica emergenza dei fatti. Un generale americano fuori di testa ha fatto partire 25 bombardieri strategici verso l'Unione Sovietica e per una rigidità totale nelle procedure è impossibile richiamarli. L'ambasciatore sovietico ha chiamato il premier Dmitri, ma, avvisa il presidente americano, è una sera di festa e Dmitri ho la sensazione che sia un po' ubriaco, dice l'ambasciatore. E comunque passa la cornetta al presidente americano. Senti un po', Dmitri, ti ricordi che noi abbiamo sempre parlato di questa possibilità che succedesse qualche inconveniente con la bomba? La bomba, Dmitri, la bomba all'idrogeno. Beh, insomma, è successo questo. Uno dei nostri comandanti di base ha avuto come... Beh, insomma, gli è girato il boccino. Beh, sai, è diventato un po' strano e... insomma, ha fatto una sciocchezzuola. Ecco, adesso ti dico cosa ha fatto. Ha ordinato ai suoi aerei di venirvi a bombardare. Lasciami finire, Dmitri. Ma cosa credi, che io mi stia divertendo? Tu te l'immagini quello che sto passando io, Dmitri? No, i nostri bombardieri non raggiungeranno gli obiettivi prima di un'ora. Sì, ma io dico sul serio, Dmitri. Ma ne ho già discusso col tuo ambasciatore, non è uno stratagemma, te lo giuro. Noi vogliamo dare al vostro Stato Maggiore tutte le notizie riguardanti i bersagli, le rotte e il sistema di difesa dei nostri bombardieri. E certo, beh, naturale, se non ci riesce di richiamare gli aerei, mi pare che sia... Ma insomma, vi dobbiamo aiutare ad abbatterli, Dmitri. E questa è la situazione paradossale che viene raccontata in quel film, ma non tanto paradossale. In quegli anni questa possibilità non era affatto così remota. L'IMES è uscito con un quaderno speciale, l'IMES è una rivista italiana di geopolitica che fa tante cose belle da tanti anni, è uscito con uno speciale intitolato A qualcuno piace atomica, storie segrete degli arsenali nucleari, da Hiroshima al caso Iran, e poi anche qui si scrive quando l'Italia pensò alla bomba. Ho qui con me questa sera Leopoldo Nuti. Buonasera Nuti. Buonasera. Lei intanto mi dica dove lavora dal punto di vista della ricerca. Io insegno storia delle relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche di Roma 3. E ha curato questa ricerca che vede contributi da parte di ricercatori italiani ma anche da molti ricercatori stranieri. È un lungo viaggio con tanti articoli in ciò che è stata la storia della bomba atomica e di quegli anni di confronto durissimo tra Est e Ovest, però anche con una serie di cose che ci portano pure fino ad oggi. E in questa ricerca che lei ha coordinato, insomma, come può accadere nella ricerca storica, sono emersi documenti, dati che vengono chiari soltanto adesso. E lei ha scritto un capitolo di questo speciale di Limes che è dedicato alla bomba italiana. È un articolo ampio in cui ci sono veramente tante cose sorprendenti. Credo che potremmo concentrarci su due. Una prima riguarda un periodo che mi pare siamo tra la fine degli anni 50 e i primissimi 60, no? Quando cominciano a essere installati dei missili. Esattamente, sì, riguarda il periodo 1957-58, quando l'Italia ha una posizione abbastanza di primo piano nella scena internazionale, per due motivi. Il primo riguarda la decisione di collaborare a un progetto italo-franco-tedesco di costruzione di un meccanismo per allestire armi moderne. Diciamo che i documenti sono sempre abbastanza vaghi su questo punto, ma dalle conversazioni tra i tre ministri della difesa si capisce chiaramente che una delle possibilità che viene discussa è proprio quella di provare a immaginare un'arma atomica europea. E l'altra iniziativa riguarda invece lo schieramento in Italia dei primi missili balistici di raggio intermedio americano schierati sul territorio continentale europeo, i missili Jupiter. A partire dal 1959-60, in base a accordi presi però nel corso del 1958 tra il governo Fanfani e l'amministrazione Eisenhower, e che daranno all'Italia la possibilità di controllare o di avere, come si diceva all'epoca, un dito sul grilletto nucleare. E lì dobbiamo ricordare che si trattava di meccanismi, di procedure che dovevano far diventare operativi questi lanci in pochi minuti, si parla di 15 minuti per decidere se lanciarli. Dei missili era di 15 minuti dal momento di ricezione dell'ordine di lancio, quindi i missili erano in uno stato di allerta permanente H24, come dicono i militari, il che non era neanche facilissimo, perché erano missili abbastanza i più avanzati possibili all'epoca, ma che avevano comunque delle procedure di lancio abbastanza complesse. Sì, non lineari, non così. Non era facilissimo. Oh, senta Nuti, adesso io vorrei riportare un brevissimo dialogo che c'è nel suo articolo e che vede impegnati il presidente Chet Oldfield di una commissione americana che sta indagando appunto su come possono funzionare o stanno funzionando queste procedure in Italia. E poi c'è un senatore che ha un cognome italiano, Pastore, ma in realtà si chiama John Pastore, un senatore che partecipa ai lavori di questa commissione. C'è un brevissimo dialogo che io adesso riproduco e poi dopo lei ce lo deve spiegare. Sì. Allora, il presidente Holyfield: tanto per cominciare, le testate sono sui missili, non sono collocate separatamente. Il senatore John Pastore: le testate sono proprio sui missili? Holyfield: proprio in cima, la cosa più simile a quello che dovrebbe essere il loro possesso da parte degli Stati Uniti è il fatto che là fuori ci sono 7 uomini e un carrello collegato elettricamente con quel coso. 6 di loro sono di un'altra nazionalità e il 7° che ha la chiave è americano. Tutto quello che devono fare per prendersi la chiave è dargli una botta in testa con uno sfollagente. Il generale Graziani, che le ha intervistato, adesso non esco dal dialogo, le ha detto che probabilmente gli americani, visto che quella era la situazione, avevano anche previsto di dare loro delle botte in testa agli altri. Insomma, che cos'era questa situazione? Era una situazione paradossale che era il frutto delle tensioni interne all'Alleanza Atlantica di quegli anni. Gli alleati europei premono per avere dagli Stati Uniti accesso al loro arsenale nucleare, e gli Stati Uniti sono divisi tra una legge che gli impedisce di farlo, la legge McMahon del 1946, e la volontà dell'amministrazione Eisenhower di venire incontro alle richieste degli alleati, per cui il risultato è un compromesso molto ambiguo, fatto di tante piccole violazioni della legge degli Stati Uniti. L'amministrazione in realtà trova delle formule per consentire agli alleati di copartecipare alla gestione delle armi nucleari americane, infrangendo le disposizioni della legge McMahon. Questo spiega lo stupore dei senatori americani quando si sentono raccontare da Holyfield che cosa ha visto nelle basi americane in Europa, perché secondo le regole imposte dalla legge McMahon, le armi nucleari americane dovevano essere custodite gelosamente dai soldati americani in apposite basi separate dalle armi o dai missili, dai vettori che le avrebbero dovuto portare sull'obiettivo. La commissione gira un po' tutta l'Europa nel 1960 e vede, non solo in Italia ma anche in altre basi, in Germania ad esempio, che invece le procedure di impiego che l'Alleanza Atlantica aveva sviluppato erano completamente diverse. Sì, con gente di due paesi e di due eserciti che hanno le chiavi, e quindi diciamo una situazione che non è poi tanto lontana da quella descritta dal dottor Stranamore, perché effettivamente... No, è una situazione abbastanza paradossale, perché nel caso specifico dei missili Jupiter la procedura di lancio prevedeva l'inserzione di una chiave fisica da parte degli ufficiali di entrambe le nazionalità nel missile per avviare il congegno di lancio, e quindi prima l'ufficiale italiano e poi l'ufficiale americano avrebbero dovuto inserire la chiave e far partire il countdown, come si dice. Oh santo cielo. Gli chiedo brevemente una cosa: a un certo momento si parla di un'Italia che potrebbe partecipare anche proprio alla costruzione di una propria bomba atomica, ma è un più un bluff? Beh, diciamo che se ne è parlato in due momenti. Il primo è quello a cui facevo riferimento prima, quando appunto si parla di questo consorzio europeo, e quello del consorzio europeo però viene vissuto dalla maggior parte dei suoi protagonisti come un progetto concepito per mettere sotto pressione l'amministrazione Eisenhower e spingerla a collaborare ulteriormente con gli alleati europei. Sono pochi quelli che all'interno del gruppo che ne discute all'epoca pensano che davvero l'Europa possa andare avanti su una strada completamente autonoma dal rapporto con gli Stati Uniti. E il secondo momento invece è qualche anno più avanti, quando il governo italiano deve decidere se firmare il trattato di non proliferazione nucleare che gli Stati Uniti hanno concordato con l'Unione Sovietica alla fine del 1966. E le prime reazioni da parte di una serie di politici italiani, a cominciare dal Presidente della Repubblica Saragat, sono di grande perplessità, e si svolge una tesissima riunione del Consiglio Supremo di Difesa in cui qualcuno avanza anche l'ipotesi che non solo l'Italia non debba firmare quel trattato, ma debba anche sondare la possibilità di procurarsi autonomamente armi nucleari, perché quel trattato viene visto come una pesante violazione della sovranità nazionale. Bene, Leopoldo Nuti, grazie. Allora, qui abbiamo visto uno dei tanti articoli, quello che ovviamente ci toccava più da vicino, la situazione della bomba atomica, la storia della bomba atomica e dell'Italia, ma arrivate però fino anche ad analizzare quello che, insomma, forse quei tempi, quell'ombra così grigia non c'è più, però insomma ci sono vicende come quella iraniana che un po' di ombre le buttano ancora, no? Sì, beh, quel numero di Limes è il risultato di un progetto di ricerca internazionale che mira a leggere i problemi dell'attualità alla luce della storia del nucleare. Quindi quello che lei vede pubblicato sono i risultati di un progetto di ricerca che va avanti da anni, in versione un po' semplificata, diciamo, proprio perché tutto il gruppo che ha partecipato a quel numero ritiene che sia estremamente difficile comprendere quello che sta succedendo oggi a prescindere dalle sue dimensioni storiche. Concludiamo, allora Limes lo trovate in edicola, lo trovate anche in libreria. Concludiamo ascoltando insieme il finale del dottor Stranamore, dove c'è una Vera Lynn che canta questa musica. Ecco, sentiamola. E qui c'è una Vera Lynn che canta: ci incontreremo non so dove, non so quando, ma sarà una splendida giornata di sole. È sunny day, però nelle immagini si vedono bombe all'idrogeno con una luce immensa che si disperdono nello spazio. E qui ci lasciamo. Grazie Leopoldo Nuti e buona ricerca. Grazie a voi, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come le altre estati, anche quella appena passata è stata interessata da un problema serio che affligge le nostre aree boschive: gli incendi estivi. Da qualche anno abbiamo uno strumento in più che arriva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal CNR italiano, e per la precisione dall'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, che ha sede a Potenza e che ha messo a punto un modello, una tecnica innovativa basata appunto sui dati satellitari, e ci permette di monitorare in qualche modo le aree più sensibili. E qui con noi stasera c'è la ricercatrice che ha messo a punto il modello, si chiama Rosa La Saponara. Intanto benvenuta. Buonasera. Ora ci ci può raccontare che cosa è Firesat e che cosa fa da 4 anni in Basilicata. Sì, effettivamente sulla base dei dati satellitari noi facciamo delle elaborazioni che vengono aggiornate quotidianamente, fornite alla Protezione Civile della Regione Basilicata. Queste mappe consentono, con un livello di dettaglio elevatissimo, di indicare i vari livelli di pericolo, ovvero dove concentrare le forze, diciamo, a terra di controllo, così come anche l'avvistamento aereo, in modo tale da garantire un pronto intervento nella ipotesi in cui ci sia poi l'effettivo innesco. Il sistema funziona? Ha il vantaggio di essere a bassissimo costo, di poter essere aggiornato in maniera automatica e di fornire, durante i periodi a maggior rischio, come accennavo prima, quotidianamente queste mappe. Quindi ciascun comune organizza il sistema di allerta quotidianamente sulla base di queste mappe, che consentono di attaccare l'incendio considerando laddove il fenomeno, una volta che si innesca per questioni che purtroppo sono sempre di origine antropica, può avere una evoluzione più virulenta. Chiaramente questo dipende dallo stato della vegetazione, dalla presenza dei venti, sono tutti questi i parametri che noi consideriamo e aggiorniamo in maniera tale da consentire, se così si può dire, un pronto intervento da terra, perché l'elemento fondamentale è quello di attaccare l'incendio quando è piccolo, certo, ovvero nel momento... utilizzando forze di terra. Quando interviene il Canadair è generalmente un incendio che è già fuori controllo. In pratica voi ricevete i dati dai satelliti, che abbiamo detto, l'ha detto lei prima, a basso costo, perché sono quelli che utilizzano anche le agenzie spaziali, la NASA, quindi quelli che si trovano in rete e che sono costantemente aggiornate, corretto? Assolutamente. E sì. Da lì costruite delle mappe con le aree sensibili. Sì, esattamente. E dicevamo all'inizio che sono 4 anni, insomma, che voi fate questo lavoro, e quindi si è creato, come dire, una cronologia, un'esperienza, per cui possiamo dire che questo strumento serve. Sì, assolutamente. Possiamo dirlo senza alcun dubbio. Abbiamo avuto la possibilità di verificare che nel corso 2008, 9, 10 e 11, nel corso di questi anni, l'estensione delle aree percorse dal fuoco si è dimezzata. Quello che per noi è importante è che ovviamente abbiamo anni che ci consentono di poter affermare senza alcun dubbio che il fenomeno è stato notevolmente ridotto grazie appunto alla possibilità di predisporre un rapido intervento a terra. Ecco, quindi allora speriamo che, insomma, avendo valutato l'efficacia di questo strumento, si possa utilizzare anche in aree particolarmente sensibili, come sappiamo la Sicilia, la Sardegna, insomma, certo, speriamo possa essere anche utilizzato. La Campania, perché chiaramente i dati sono poi disponibili su scala non solo nazionale ma mondiale, certo, proprio perché sono acquisiti sistematicamente, resi sistematicamente disponibili dalla NASA. Va bene, la ringrazio e davvero buon lavoro, ci faccia sapere come saranno gli sviluppi. La ringrazio, buonasera. C'è un libro che esce periodicamente ogni tot di anni, sta per arrivare la 5ª edizione. Questo libro si chiama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quindi il manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali. È pubblicato negli Stati Uniti ed è un libro nel quale si dice che cosa funziona e che cosa non funziona nella nostra mente, si cerca di definirlo. Allora, è possibile fare una cosa di questo genere che può avere un impatto notevole sulla vita di noi tutti? C'è una bella querelle, c'è una bella discussione intorno a questo tipo di manuali. E per parlare appunto di questa querelle ho qui con me questa sera Vittorio Lingiardi. Buonasera Lingiardi. Buonasera, buonasera. Lei è ordinario di psicopatologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università Sapienza di Roma e so che lei è all'interno di questo dibattito. Insomma, è una cosa che ne state discutendo davvero molto voi psicanalisti, psichiatri, psicologi. È possibile, insomma, questo manuale qui effettivamente ha quella pretesa lì? È usato in questo modo? Il DSM, cioè appunto come diceva lei, il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, intanto dobbiamo dire che è curato dalla American Psychiatric Association, quindi è un volume che raccoglie le diagnosi psichiatriche, cioè quello che secondo la psichiatria americana è diagnosticamente rilevante nel mondo della psicopatologia e quindi del disturbo mentale, è uno dei tanti sistemi diagnostici con cui si può dare un nome e una descrizione alle malattie mentali e ai disturbi della personalità. Naturalmente non è l'unico sistema diagnostico esistente, tanto per dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha il suo, che si chiama ICD, International Classification of Disease, però sicuramente il DSM, per la sua lunga storia, per l'impatto internazionale, politico, economico, culturale che ha l'American Psychiatric Association, è senz'altro uno dei manuali diagnostici più utilizzati nel mondo. Quindi nei fatti è diventato un riferimento più o meno. È un riferimento costante sia nel campo della ricerca sia nel campo della diagnostica clinica. Quando si fa una diagnosi in ambito psichiatrico, negli Stati Uniti sempre, in gran parte del mondo occidentale e in gran parte anche in Italia, è richiesta un codice che è la corrispondenza di una determinata diagnosi. Ora, qual è il problema? Il problema è che ovviamente, come diceva lei, non è facile accordarsi su che cosa è diagnosticabile come disturbo mentale e che cosa no. L'altro problema naturalmente è quale delle infinite possibilità diagnostiche che ci sono, lei citava la psicoanalisi che ha un suo mondo diagnostico, poi la biologia, la psichiatria biologica ha un altro suo mondo diagnostico, quindi quanto questa diagnostica DSM copre le tante possibilità e tanti approcci alla diagnosi che ci sono. Ecco, le chiedo un'altra cosa, mi dica se sbaglio, poi entriamo subito di più nel merito. Questo tipo di manuali, questo tipo di strumenti di riferimento hanno ovviamente una loro rilevanza in quello che è la ricerca, il dibattito dal punto di vista appunto di chi studia questo insieme di fenomenologie, però hanno anche una rilevanza, mi pare di capire, per quanto riguarda procedimenti legali, eredità, le assicurazioni, no? Perché in qualche modo viene utilizzato per dire no, questo signore è malato, no, è assolutamente sano. Assolutamente sì. La diagnostica è anche una di quelle, diciamo, punti di riferimento che servono all'assicurazione, alla giurisprudenza per definire determinare. Le faccio un esempio molto semplice che proprio è legato al DSM. Lo faccia, sì. Nel DSM quarto si parla del cosiddetto disturbo dell'identità di genere, che è diciamo una patologia legata alla problematica dell'identità sessuale. Ora, c'è stata giustamente tutta una protesta da parte del movimento delle persone transessuali dicendo questa diagnosi è patologizzante. Se questa diagnosi viene tolta dal manuale, non c'è più, diciamo, l'appoggio manualistico per poter ricevere dalle assicurazioni i rimborsi per potersi sottoporre a tutta una serie di interventi medici per l'adeguamento sessuale. Ecco. Se rimane come diagnosi è considerato stigmatizzante. Ecco, questo nodo scientifico, culturale, politico e economico tra la diagnosi che ha certe caratteristiche ma anche un'influenza, diciamo così, sul mercato assicurativo è molto importante. C'è un impatto impressionante, certo. Il nome nel DSM-5 probabilmente cambierà e sarà non più disturbo dell'identità di genere ma disforia di genere, quindi un'etichetta diagnostica meno patologizzante ma che mantiene la sua presenza nel manuale in modo tale da coprire le esigenze medico-assicurative, eccetera. Chiarissimo. Ecco, ma io le chiedo, è possibile fare un manuale di questo genere? È un'impresa folle, molto più pericolosa di quanto può essere utile? Com'è il suo giudizio, magari anche quello di altri? Allora, il mio giudizio e quello anche di molti colleghi è che la diagnosi in psichiatria è un fatto molto importante, perché, come anche nella medicina, è importante che a una serie di sintomi corrisponda un riferimento diagnostico, perché un riferimento diagnostico consente anche di proporre una terapia, soprattutto, e di vedere anche come se alcuni quadri si assomigliano o sono diversi. Naturalmente la risposta alla sua domanda è che tipo di riferimento diagnostico e che cosa bisogna tenere presente. Il DSM è un descrittore, diciamo a maglie anche molto larghe, che dà una fotografia iniziale molto descrittiva e per sua stessa missione ateoretica, cioè senza far riferimento a un preciso retroterra culturale, cioè non sono diagnosi psicoanalitiche, per esempio, forse sono diagnosi più tradizionali in senso medico-psichiatrico, che descrivono come sono certe patologie. Poi, e proprio relativamente al DSM-5, ci sono state molte proteste relativamente a quello che sarà il DSM-5, ma che già è ovviamente circola per gli addetti ai lavori un'agenda di come sarà il DSM-5, ci sono state molte proteste perché dicono che saranno diagnosi molto legate al trattamento farmacologico e poco legate a tutto quel mondo invece di diagnostica psicodinamica, psicologico-clinica, che non mette necessariamente in relazione una patologia o un disturbo mentale al suo trattamento farmacologico, magari a altri tipi di trattamento. Certo. Quindi gli psicologi, diciamo così, sono un po' insorti. È anche vero che esistono alternative che possono affiancare o integrare diagnosticamente il DSM, e per esempio un nome simile si chiama PDM, è stato tra l'altro recentemente tradotto e pubblicato in Italia da Raffaello Cortina, che vuol dire manuale diagnostico psicodinamico, ha molte etichette diagnostiche simili, per esempio la depressione maggiore, la schizofrenia, il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, cioè ricorrono in tutti i manuali diagnostici, ma ha un approccio e uno stile diverso, cioè cerca di, per dirla in modo molto semplice, il DSM vuole descrivere delle malattie, quindi oggettivare delle forme patologiche. Sì. Il PDM vuole descrivere delle persone che hanno caratteristiche patologiche. Quindi un rovesciamento. Ma mi scusi Lingiardi, le chiedo anche con una risposta rapida, ma qui forse c'è di più un vuoto di tipo legislativo, cioè che questi manuali cerchino di definire il dibattito che c'è all'interno della vostra area di ricerca nella definizione delle patologie è una cosa, però bisognerebbe che i tribunali e insomma i legislatori dicessero va bene, però a noi non interessa sul piano delle decisioni che riguardano appunto comportamenti sociali, assicurazioni, robe di questo genere. Beh, dal punto di vista forense però la diagnostica psichiatrica e la medicina forense e la giurisprudenza sono sempre state in dialogo, e quando uno fa una perizia e deve definire le caratteristiche psicopatologiche di una persona, perché questa persona è oggetto di attenzione della giurisprudenza, utilizza una diagnosi per dire questa persona ha o non ha una determinata patologia. Ha ragione lei. Il problema poi annoso della capacità di intendere e di volere, che comunque è un sottoinsieme di questa. Ci sono delle diagnosi psichiatriche, come per esempio i disturbi della personalità, che in alcuni casi coesistono con la capacità di intendere e volere. Ci sono altri casi, come per esempio un disturbo delirante, che non coesiste con la capacità di intendere e volere. Certo, ha ragione lei. Se pensiamo a tutto il settore della medicina del lavoro e quindi tutte le cause in cui bisogna compensare, no? Danni avvenuti, certo, insomma, la legislazione non può stare lontana da queste cose. Grazie Vittorio Lingiardi e buona ricerca. Grazie, buonasera. Abbiamo iniziato con le lucciole, abbiamo concluso con le malattie mentali, in mezzo c'era pure la bomba atomica italiana e le auto che guidano se stesse. Abbiamo fatto davvero un bel giro, no? Vi aspettiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.